2024 di Enrico Pagliarini. Ci siamo di nuovo, bentornati a 2024, benvenuti, questa è la puntata del 19 dicembre 2014 e tra poco dovremo abituarci al 2015. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook o Twitter. Per quanto riguarda lo sviluppo della rete internet in Italia, questo è un tema a noi molto caro, che ci interessa molto e dovrebbe interessare a tutto il paese, in primis alla politica, perché dallo sviluppo della rete internet, non solo dell'infrastruttura ma anche dei servizi, dipende buona parte della nostra economia. E questo vale per tutti, anche chi ha un'industria oramai dipende fortemente da internet. Potremmo dire che internet è come l'energia elettrica, dobbiamo avere entrambe le cose, come il gas, l'acqua, eccetera, eccetera. Allora, questa settimana c'è stato un incontro importante alla Presidenza del Consiglio con varie persone per valutare come mettere assieme le esigenze del Paese, in parte soddisfatte dal piano banda larga, che è stato in consultazione in questo ultimo mese, ma è un piano naturalmente nel medio periodo che va a tappare alcuni buchi. Poi bisogna pensare ad un piano invece per il medio-lungo periodo. Allora, soddisfare le esigenze del paese, mettere anche insieme tutto ciò con le dinamiche del mercato. Ci sono alcuni movimenti che probabilmente avrete letto o sentito ascoltando anche 2024, dei vari movimenti o delle possibilità che ci sono sul mercato. Al centro c'è soprattutto Metroweb, ma visto che questa è una faccenda che si concluderà fra qualche mese, avremo sicuramente tempo per riparlarne. A tal proposito, sempre su questo tema, va registrato che il senatore Cioffi del Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per chiedere al governo di fare quello che del resto è nel programma di Renzi, cioè una società pubblica per la rete in fibra ottica sul modello sostanzialmente di Terna, quindi una così come c'è la rete elettrica pubblica, ma del resto tutte le altre reti sono pubbliche. In questa mozione si chiede al governo di fare quello che, come dicevo, è inserito anche nel programma di Renzi, cioè una infrastruttura pubblica che tra l'altro nel medio-lungo periodo avrebbe anche un ritorno sicuro dell'investimento, quindi potrebbe essere un investimento per cassa, depositi e prestiti, e sarebbe anche un buon modo per muovere il mercato, per realizzare una vera e propria concorrenza sul mercato, una vera e propria concorrenza che sapete benissimo fino ad oggi non c'è stata, e sono del resto molte le prese di posizione da una parte dell'Agicom, da una parte degli altri operatori, i famosi OLO, gli operatori alternativi all'operatore principale che possiede la fibra in la rete in rame. Dunque, vi volevo aggiornare su alcuni dati che sono usciti questa settimana di Gartner, che ci raccontano come stanno andando le vendite dei telefonini e degli smartphone. Allora, stiamo parlando di vendite del terzo trimestre 2014. Le vendite degli smartphone sono cresciute del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e siamo arrivati a 300 milioni di unità. I telefoni in totale, quindi comprendendo anche i telefonini vecchio stile, chiamiamoli così, sono 455 milioni. Però, mentre gli smartphone salgono e crescono del 20%, i cosiddetti feature phone, quindi i vecchi telefonini, sono crollati del 25%. Questo è un trend che stiamo vedendo da un po' di tempo e secondo Gartner entro il 2018 la quota dei feature phone che verranno venduti prevalentemente nei paesi del terzo mondo crollerà al 10%, quindi tutto il resto saranno smartphone. Devo dire che queste percentuali naturalmente sono già state raggiunte nei paesi evoluti. In Europa sostanzialmente quasi tutti i telefonini sono smartphone, anche perché oggi si trovano smartphone a meno di 100 euro. Allora, per quanto riguarda i venditori, ci sono dati interessanti sulle dinamiche. Naturalmente questi sono dati mondiali e poi andrebbero fatti mille distinguo per vari paesi, però sono indicativi di quello che sta succedendo. Allora, Samsung ha visto crollare le proprie quote di mercato dal 32% dello scorso anno, sempre parliamo del terzo trimestre, al 24%. Chi sta facendo una grande concorrenza a Samsung nel segmento Android? Beh, soprattutto i produttori cinesi. Allora, Huawei è salita al 5,3%, ma soprattutto è salita dall'1,5%, quindi quasi insignificante, al 5,2% Xiaomi. Chi è Xiaomi? Scritto con la X iniziale. Xiaomi è il principale venditore di telefoni, di smartphone in Cina. Quindi se hai una buona fetta di mercato in Cina, hai un valore molto alto nelle classifiche internazionali e mondiali. Allora, pensate che Xiaomi, e qua la dice lunga su quanto sono evoluti i consumatori, anche in Cina, vende solo online. Quindi vende smartphone online, in Cina è il numero uno e vale nel mondo 5,2%. Lenovo è al 5%, quindi abbiamo Huawei, Xiaomi e Lenovo, che sono più o meno tutti al 5% e sono produttori cinesi nel segmento Android. Chi si salva alla seconda posizione è Apple, stanno avendo un buon successo gli iPhone 6, quindi il 6 e il 6 Plus, che dal 12,1% sale al 12,7% e vende più telefoni rispetto allo scorso anno ed è in seconda posizione. Se guardiamo ai sistemi operativi, Android nel mondo ha l'83%, poi ci sono delle differenze molto forti, ad esempio negli Stati Uniti è molto forte iOS, anche in Gran Bretagna, in Italia più o meno siamo su questi livelli, quindi Android 83% nel mondo, iOS 12,7%, Windows al 3%, e tra l'altro Windows è calato rispetto allo scorso anno. Vedremo quali saranno le dinamiche nei prossimi mesi, visto che in questo terzo trimestre abbiamo vissuto il passaggio definitivo dalla Nokia ai Lumia, che sono marchiati solo Microsoft. Possiamo dare un'occhiata anche ai produttori, intendendo non solo gli smartphone ma tutti i telefoni. Samsung è al numero uno con una quota del 20% mondiale, Nokia al 9,2% perché ci sono ancora i feature phone Nokia, Apple è terza all'8,3%, poi c'è LG, Huawei eccetera eccetera, e poi saliamo a percentuali che sono inferiori al 3%. Dati interessanti, altri dati tra poco nelle nostre digital news. Come sempre iniziamo la nostra puntata con alcune notizie in breve della settimana. Digital News. L'Istat ha pubblicato e aggiornato il rapporto sugli italiani e la tecnologia, che non è un gran bel rapporto, eh? Ci sono quasi 22 milioni di persone che non hanno mai usato internet, pari al 38% della popolazione. Siamo agli ultimi posti in Europa. Sono dati che non cambiano molto le dinamiche del nostro paese, quindi dati che conoscevamo già, però questo è un aggiornamento. Digital News. L'FBI ha accusato formalmente il governo della Corea del Nord di avere messo a segno l'attacco informatico alla Sony Pictures. Ricorderete che un'ingente quantità di dati, parliamo di decine di tera di dati, anche dati sensibili di molti dipendenti, sono stati rubati. Ma la cosa ancora più grave è il secondo gradino dell'attacco, perché un conto è l'attacco informatico alla società Sony Pictures americana, quindi la divisione dei film di Sony. Allora, la seconda parte di questo attacco è stata la minaccia ai cinema che avrebbero mandato in onda, insomma, che avrebbero proiettato The Interview, il film su un piano per assassinare Kim Jong-un, quindi il leader della Corea del Nord. Gli Stati Uniti stanno valutando come rispondere. Va ricordato che la legge americana equipara l'attacco informatico a quello militare quando sia messa a repentaglio la sicurezza nazionale, e contempla la legge americana anche una risposta militare ad un attacco informatico. Digital News. BlackBerry ha presentato il nuovo Classic, il nuovo smartphone che ha naturalmente il nuovo sistema operativo, il BlackBerry 10, e però il vecchio e classico feeling del BlackBerry, cioè la tastiera fisica. E sicuramente per tutti gli amanti della tastiera fisica è un ottimo prodotto, e vedremo cosa succederà, come risponderanno soprattutto le aziende che fanno ancora largo uso di BlackBerry. Digital News. Samsung ha annunciato che ChatOn, il servizio di messaggistica multipiattaforma preinstallato su tutti gli smartphone Samsung, chiuderà il 1 febbraio 2015. Questo servizio non ha mai avuto molto successo ed è stato schiacciato da i vari servizi come WhatsApp, ma tutti gli altri che stanno invece avendo grande successo, quindi Samsung prende atto e chiude tutto. Digital News. Al prossimo Consumer Electronics Show di Las Vegas ci sarà molta attenzione alla Smart Home, quindi la casa digitale, nuovo modo per dire domotica. A proposito di casa intelligente, un esempio ancora, potremmo dire, rudimentale di quello che accadrà nei prossimi anni, comunque un esempio di integrazione fra i nostri dati e uno strumento di casa, arriva da Google, che di dati ne ha un sacco. Allora ha integrato tutta la funzionalità del termostato Nest all'interno di Google Now, che è una sorta di concentrato della nostra vita se noi accettiamo di dare i dati. Allora, in questo modo Nest ad esempio conosce la nostra posizione e in particolare quando stiamo andando a casa potrebbe decidere, in base anche alle nostre abitudini e a quello che noi abbiamo consigliato a Nest, di aumentare la temperatura. Sicuramente non va bene per i sistemi con riscaldamento a pavimento, che hanno un'inerzia di molte ore, non di poche ore. Adesso parliamo di cinema su internet. Sapete che ci sono oramai anche in Italia alcuni servizi che ci permettono di noleggiare o di comprare e poi di vedere in streaming direttamente dal nostro salotto, dal nostro computer, dal nostro tablet, dal nostro televisore, film. Ci sono sostanzialmente due grandi famiglie dei servizi su abbonamento. Pago un abbonamento mensile, posso accedere ad un catalogo, ma per motivi di diritti, di cui parleremo anche tra poco, questi film sono vecchi di almeno 6 anni, a parte qualche eccezione. Oppure ci sono i veri servizi di video on demand, e quelli funzionano come il noleggio tradizionale, quindi film appena usciti dalle sale cinematografiche. Saluto Stefano Parisi, che è il presidente di Cili Cinema. Benvenuto a 2024. Grazie mille. Cili, che si scrive C-H-I-L-I, con le I normali, senza nessuna Y. Cili è un servizio per vedere film. Negli ultimi tempi abbiamo assistito all'arrivo, all'apertura, al lancio di vari servizi di questo tipo. Come funziona Cili? Che cosa offrite ai consumatori? Anche noi offriamo migliaia di film e serie TV. Abbiamo in questo momento in catalogo in Italia 5.000 titoli tra film e serie TV. La differenza che noi abbiamo con le altre piattaforme che ci sono oggi nel mondo è che noi non siamo ad abbonamento. I nostri clienti non devono abbonarsi, possono registrarsi, mettere un sistema di pagamento che può essere una carta di credito, PayPal, o c'è anche un wallet ricaricabile, una sorta di ricaricabile, e vedersi e comprare il singolo film che vogliono vedersi. Un po' come andare al cinema, che uno paga per il film che va a vedere. È come andare al cinema, si paga solo per il film che si vuol vedere, e questo ovviamente cambia un po' sia il modello di consumo, nel senso che il nostro cliente è libero di entrare e vedere il suo film quando vuole, non ha bisogno di pagare un abbonamento. Nello stesso tempo può essere anche un cliente che vede i suoi film su Sky piuttosto che su Mediaset e decide poi anche di prendersi un film da Cili. E l'altra differenza è che noi abbiamo, per i contratti con le major, cioè con coloro che producono e distribuiscono film, abbiamo i film in anticipo rispetto a coloro che li danno in abbonamento. Esatto, direi che questo è uno degli elementi, se non il più importante, che vi distingue con gli altri servizi, perché uno potrebbe dire con altri servizi pago una quota sostanzialmente che corrisponde a 1, 2, 3 film, dipende poi dai casi, e posso vedere tutti i film che voglio. Il problema delle finestre legate ai diritti, le finestre di disponibilità nei vari sistemi, è un problema molto serio, perché di fatto dopo che il film esce al cinema entra in varie finestre. È complicatissimo questo sistema, quindi voi li avete la prima finestra dopo il cinema siamo noi e l'home video fisico, cioè i DVD, il negozio che mi noleggia il film, esatto, che oppure compro. Anche da noi si può noleggiare il film e quindi si può vederlo entro 28 giorni per 48 ore dal primo play che viene fatto, quindi il cliente ha tempo 28 giorni per vederlo, quando inizia a vederlo poi ha tempo 48 ore. Lo può riguardare una seconda, esatto, terza volta. Però. Può fare un download sui suoi device, sui suoi terminali, sullo smartphone, sul tablet, sul PC, o può anche comprarlo il film, a quel punto ovviamente il prezzo è più elevato e è suo per sempre. Sono di più quelli che comprano o quelli che noleggiano? Quelli che noleggiano. Che noleggiano, immagino. Dove si vedono i vostri film? Perché io ho detto prima che quando si parla di online uno pensa subito al computer e sicuramente vedere un film al computer non è molto agevole, di solito è meglio vederlo in un bel televisore seduti comodi, anche sul TV si può vedere. Sì, certo, il 60% dei nostri consumi dei film visti sulla piattaforma Chili è attraverso la TV smart. Queste nuove TV, ormai tutte, sì, le TV che sono in commercio sono smart, che si collegano a internet e si possono vedere film ad altissima definizione, di grande qualità, senza buffering assolutamente, quindi senza rallentamenti nella visione del film. Il 60% dei consumi sono fatti su televisione e anche chi inizia a vederlo sulla televisione poi acquisisce una certa consuetudine, sono i clienti che vedono più film, quelli che l'hanno visto la prima volta attraverso la televisione, però lo si può vedere anche sul PC, sul tablet, addirittura sullo smartphone. Questo è un pochino più complicato per i maniaci. Esatto. Però deve essere un momento difficile della giornata se, esatto, uno si mette a vedere un film sullo smartphone. Però lo smartphone è piattaforma Android, è molto utile per vederlo con Chromecast è questa chiavetta da 35 euro che viene venduta da Google e che si attacca alla televisione e trasforma una televisione non smart in smart, sì, ma soprattutto rende lo smartphone Android un telecomando. Quindi io attivo il mio film sul mio tablet, cellulare, smartphone, appunto. Esatto. E poi me lo posso vedere ad alta definizione sulla TV. Sì. Posso vedere anche le mie fotografie, i miei film, tutto il mio contenuto video lo posso vedere attraverso questa piccola chiavetta che è veramente rivoluzionaria e che è molto avanzata e anche noi siamo anche su questa piattaforma. Sì, quindi anche poco costosa perché con 35 euro si trasforma una vecchia, sì, televisione con una porta HDMI si trasforma. Sì. Però ecco, per esempio i tablet sono molto utili perché la gente si può scaricare il film e per esempio stare in treno piuttosto che in aereo. Si può vedere un film che si scarica precedentemente, se lo mette nel suo tablet e poi si fa il suo viaggio in aereo e se lo può guardare come vuole. Insomma. Naturalmente questo tema è legato al tema più vasto della banda larga e ne parleremo tra poco. Abbiamo detto che i film in catalogo sono 5.000 e spesso questo numero di 5.000 o comunque di alcune migliaia di film ricorre nei vari servizi che ci sono sul mercato. Quando parliamo della musica digitale che noi possiamo utilizzare online e ascoltare online, parliamo invece di milioni di canzoni. Dove sta il problema? Cioè, ci sono sicuramente meno film rispetto a canzoni, perché si fa prima fare una canzone rispetto a un film, è ovvio, però mi sembra che ancora le major mettano a disposizione dei clienti per i servizi su internet come il vostro, di video on demand, pochi titoli. È così o sbaglio? È così. Vabbè, ovviamente il film è un prodotto più complesso di un brano musicale, certamente, quindi ovviamente in valore assoluto sono meno i film rispetto certamente, a musica, certo. Certamente. Quello che c'è da dire è che c'è un tema di lingua, nel senso che l'offerta di film nei mercati inglesi di origine, di lingua inglese, dove la maggior parte dei film in lingua originale sono fatti, hanno una offerta anche che arriva anche a 20.000 film. In italiano sono doppiati meno un numero film, molto, sì, più, molto più nel basso di film, e questo è un po' il difetto del mercato italiano, cioè del fatto che la gente è abituata a vedere i film doppiati, mentre invece in molti altri mercati i film vengono visti in lingua originale magari con i sottotitoli, sì, no? E questo è un po' un vizio, una pigrizia del nostro mercato che noi finalmente adesso riusciamo un pochettino a rimuovere, perché finalmente siamo riusciti, avendo un'espansione internazionale, ad avere i film in lingua originale che proporremo anche in Italia, quindi questo sicuramente ci allargherà la library. È interessante questo. È interessante anche perché qui c'è un tema anche qui di pirateria importante, perché per esempio la pirateria è un mercato in cui la lingua non è un ostacolo, nel senso molti giovani si scaricano i film o le serie televisive in lingua originale sì, li vedono tranquillamente. Indipendentemente dalla lingua. Quindi le major, le chiamiamo così, le case di produzione cinematografiche, non hanno ancora completamente capito quello che ormai chi produce la musica ha capito. Oggi non c'è, con i vari servizi che ti permettono legalmente di ascoltare qualsiasi brano musicale, non c'è molta ragione di scaricare una canzone pirata. Nei film, anche per i problemi delle finestre, perché alcuni film non sono disponibili subito, eccetera, eccetera, questo è ancora un problema. Guardi, il mercato del cinema è un mercato ancora fermo a vecchie regole. Le regole sono di protezione del mercato, della distribuzione nelle sale cinematografiche. Addirittura il primo weekend di uscita di un film, l'incasso di quel primo weekend fa il valore del film per tutta la sua esistenza. Quindi i film sono più o meno fortunati, costano più o meno, appartengono a cluster diversi di valore a seconda di quello che succede nel primo weekend. A causa di un weekend. Esatto. Poi cosa succede? Succede che poi per proteggere queste le sale, il film arriva da noi in un'offerta di distribuzione digitale 3 mesi dopo che ha finito di stare nelle sale. Quindi può arrivare anche a 5-6 mesi dopo l'uscita. Consideri che la casa di produzione o di distribuzione la campagna pubblicitaria su quel film la fa soltanto al lancio nelle sale. Quindi tutti gli altri mercati che vengono dopo, che sono il primo e il nostro, poi c'è quello della pay tv fino alla free, alla distribuzione sulla televisione, sul digitale terrestre, sul digitale terrestre free, sì, è priva di comunicazione e quindi non valorizzano sì, questo. Qual è il problema? Che il mercato, questa è l'offerta, la domanda funziona così, le dico il mercato italiano. Noi abbiamo una cosa che vale più o meno 300-400 milioni l'anno, che è la pirateria, che è quella che si sviluppa da quando il film è annunciato nelle sale a quando arriva sulla distribuzione digitale. In quel momento il film o lo vedi nelle sale o non lo vedi, o addirittura alcuni film neanche li vedi. Sì, perché quindi, sono in pochissime sale, esatto. Siccome ci sono però dei potentissimi siti che riescono per un modo o nell'altro ad avere queste registrazioni più o meno di qualità, alcune sono anche di qualità, sì, perché sì, riescono addirittura a rubare il materiale, il master, in quel momento non c'è altra alternativa per una persona che vuole vedersi un film che non quello di scaricarlo gratis da questi siti illegali. Cos'altro succede? Che se guardiamo chi va al cinema, quindi quanto vale il cinema oggi in Italia, il 50% degli italiani non va mai al cinema. L'altro 50%, dell'altro 50%, il 20%, quindi il 10% degli italiani, comprano l'80% dei biglietti. L'altro 40% va al cinema una volta l'anno, di solito ci va adesso a Natale, sì, oppure sì, perché esce il film di Checco Zalone. Sì. Quindi stiamo parlando di una distribuzione, le sale si stanno riducendo come è noto, la distanza media del cittadino italiano da una sala cinematografica è 30 chilometri. Incredibile. Perché noi che viviamo magari nelle città non ce ne accorgiamo, sì, sì, ma sì, chissà. Quindi fa capire come questa distribuzione è proprio assolutamente inefficiente, perché addirittura in molti film non escono neanche nelle sale. I film di Venezia, non sono del Festival di Venezia, quelli che hanno vinto, non sono ancora disponibili, non escono nelle sale. La gente vuole vedere i film, perché non glieli lasciamo vedere? Questo è il vero grande tema, cioè che... Quindi anche voi soffrite. Sì, ma soprattutto quello che... Cioè noi soffriamo un po', ma soprattutto sì, quelli sì, che soffrono sono i produttori e i distributori, a nostro avviso. Certo. Che è successo? Che nella musica si sono trovati davanti a una tragedia, cioè nessuno più comprava niente perché c'era solo la pirateria. E quindi Steve Jobs, oggi Spotify, eccetera, eccetera, hanno offerto un'alternativa che valorizza. Oggi il cinema non è in quelle condizioni di tragedia in cui 15 anni fa, 10 anni fa si trova la produzione musicale, e quindi ancora non si rendono conto che il mondo è cambiato, la gente vuole vedere delle storie, le vuole vedere, è pronto a pagare un prezzo buono per poterle vedere, specie se sono di qualità, perché non gliele diamo, c'è una domanda, l'offerta deve adeguarsi. Adesso Parisi, c'è una breve pausa per noi, poi parliamo anche della vostra espansione all'estero, perché... In un mondo fatto di player globali americani, voi siete italiani, questo fa sempre piacere, e vi preparate ad andare in altri paesi europei. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che il nostro servizio podcast vi offrirà anche questa puntata al termine della nostra trasmissione. Molto veloce, molto efficace. Quindi vi consiglio di abbonarvi al servizio podcast di Radio 24 e scaricare settimana dopo settimana 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ringrazio Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. E con noi in questa puntata Stefano Parisi, che è il presidente di Cili Cinema. Oggi, ancora oggi, la stragrande maggioranza di film, di serie TV, vengono visti attraverso sistemi lineari, quindi la TV digitale terrestre, il satellite. Ma se noi guardiamo al video, quindi non considerando solo il cinema, ma tutti i video, beh, la fruizione di video già oggi supera quella su internet, supera quella sui televisori e sui sistemi lineari tradizionali. Per il cinema siamo ancora legati a certi modelli, anche perché dicevamo poco fa che c'è anche un problema di diritti e di capacità di intuire il futuro delle major cinematografiche, che certo un po' vanno comprese, perché fare un passo in avanti è sempre complicato, però a volte bisogna anche darsi un po' una svegliata. Allora, questo è sicuramente uno dei mega trend dei prossimi anni. Parisi, voi siete una società italiana, una tecnologia italiana, perché avete anche un cuore tecnologico, e state andando all'estero. Dove? Sì, noi siamo, oggi siamo in Italia e siamo i primi in Italia come base clienti. E siamo i primi e gli unici italiani indipendenti, nel senso che i nostri azionisti siamo noi, manager, e un fondo di private equity e degli investitori privati che sono entrati. Le altre piattaforme sono una di Sky, una di Mediaset e l'altra di Telecom Italia, quindi che fanno comunque una cosa diversa, perché abbiamo detto che offrono su abbonamento, e quindi invece non è... fanno una cosa diversa, però diciamo così è sempre video streaming. Sì, sì, sì, sì. E ovviamente per queste tre grandi aziende è un'attività collaterale, per noi è la nostra unica attività core. Dall'altro ieri siamo sbarcati in Austria, e annunceremo in maniera formale questo lancio in Austria all'inizio dell'anno, però tecnologicamente siamo già aperti, il sito è già aperto in Austria, e successivamente andremo a gennaio, apriamo in Polonia, poi tra febbraio e marzo apriremo in Germania e in Gran Bretagna. E poi la nostra intenzione è, se abbiamo successo in questi startup di questi paesi, nella seconda metà dell'anno partire anche in altri paesi europei. Cioè vogliamo, la nostra ambizione è di diventare la prima piattaforma europea di distribuzione di contenuti di film in streaming. In streaming, on demand. Ci sono altri grossi player in questo settore, al di là di quelli che abbiamo citato prima, ma nello specifico dell'on demand, cioè prendo un film e pago solo quel film ogni volta che ho voglia. Sì, sì, certo, c'è iTunes che ha lo stesso modello, solo che iTunes non è sulle smart TV, perché per stare sulla TV bisogna comprare il device, bisogna comprare l'Apple TV. Sì. Ci sono poi, c'è Google Play, c'è Amazon che c'ha, anche loro hanno diciamo così dei conflitti di interessi interni, nel senso che Amazon vende anche il fisico, quindi non spinge molto su questa attività di video streaming. Sì, certo, sono tutti americani, cioè le alternative a Cili sono tutte alternative americane, statunitensi. Noi siamo convinti che il mercato europeo, che è indietro rispetto al mercato americano, Netflix da sola ha 40 milioni di clienti negli Stati Uniti, in Germania, per dirle, ancora adesso il 90% dei consumi è sul supporto fisico, solo il 10% è sul video streaming. Sì. E lì c'è già Netflix, come c'è negli altri paesi in cui stiamo andando. Però in Europa siamo proprio all'inizio e stiamo un po' aprendo il mercato, quindi siamo confidenti della potenzialità di crescita straordinaria che questo mercato ha. Fra 10 anni la televisione la vedremo tutti così. Metto sul tavolo due temi. Il primo è quello della banda larga, e quindi quanto questi servizi già oggi sono dipendenti dalla mancanza di banda larga, o se invece mi dice che quello che abbiamo oggi in Italia è già sufficiente, accettabile. Poi c'è un altro tema che è quello della semplicità di questi sistemi, perché sicuramente stiamo parlando di un mondo che è sicuramente agli inizi, però per alcuni potrebbe anche essere un po' complicato, perché è molto facile accendere il televisore e vedere il digitale terrestre, che ne so, i satellite. Forse in questo caso bisogna fare qualche passaggio in più. Banda larga è accettabile già? Beh, allora sappiamo tutti che è necessario investire e avere una banda più larga di quella che abbiamo oggi. Guardi, in Europa il 50% dei consumi di banda sono ormai video. Negli Stati Uniti stiamo intorno al 70%. Nelle ore di picco, Netflix fa negli Stati Uniti farà la gran parte del consumo di banda negli Stati Uniti. In Italia siamo indietro come banda, come disponibilità di banda. Noi abbiamo una tecnologia che si chiama Adaptive Streaming, che consente di vedere il film anche su una banda 3G, quindi anche con 1 o 2 mega disponibili, però sicuramente non in HD, non in alta definizione, e sicuramente l'esperienza che si fa davanti all'alta definizione è completamente diversa. Noi purtroppo in Italia siamo indietro, molto indietro. Io ricordo quando io ero amministratore delegato di Fastweb nel 2009-2010, la rete in fibra ottica di Fastweb era il 40%, copriva il 40% delle abitazioni in fibra ottica coperte in tutta Europa dalla tecnologia in fibra ottica. Sì. Eravamo i primi in Europa come banda ultra larga. Oggi siamo gli ultimi, siamo il 23% delle nostre abitazioni sono coperte dalla fibra. La Grecia sta meglio di noi, mi sembra che sia il 25%. Noi in 4 anni siamo passati dal primo posto all'ultimo. E questo è un tema, nel senso che non è un problema solo per noi, è un problema certo, un po' per tutti. E poi in Italia c'è un altro problema molto importante, che solo il 50% delle famiglie ha un PC e solo un 50% delle famiglie ha un collegamento internet. Cioè abbiamo il 50% delle famiglie che non ha un PC, ma soprattutto non ha un collegamento internet, se non il collegamento 3G dello smartphone. Sì. Mentre invece questa percentuale negli altri paesi dove noi stiamo andando, lì c'è una copertura della banda ultralarga, parliamo di 50 mega, che sta intorno al 70-75%, parliamo di Polonia, Austria, Germania e Gran Bretagna, anche la Polonia, e soprattutto abbiamo una penetrazione di internet fisso nelle case che sta tra il 60 e il 70%, anche il 75% nei paesi nordici. Quindi questo è uno dei motivi per cui andate in quei paesi. Questo è il motivo per cui andiamo in quei paesi, perché lì il 70% delle televisioni è connesso a internet, in Italia non più del 30-35%, quindi noi andiamo a cercare la crescita in questi altri paesi perché è più rapida. Quello che dico è che, su cui mi piacerebbe che ci fosse un po' una riflessione, io ho combattuto tanto da amministratore delegato di Fastweb l'esigenza di penetrare i mercati non PC. Oggi ci si apre un'autostrada, che è quella delle smart TV. Tutte le nuove televisioni sono connettibili a internet. Sì. Quindi si può parlare alle famiglie che oggi non hanno un PC, perché magari non hanno un ragazzo in casa, perché sono più anziani, eccetera, dicendogli: guarda che se tu colleghi la tua televisione a internet puoi avere un mondo nuovo di contenuti, di vario genere, non solo cigli ovviamente. E questo è un tema molto importante, che può, commercialmente molto importante, che dovrebbe essere utilizzato dagli operatori di telecomunicazioni per penetrare il mercato che oggi non riescono a penetrare, no? E questo è un problema, anche perché se uno va a vedere i piani di investimento che hanno gli operatori di telecomunicazioni in Italia, non ci portano nel 2020 a raggiungere la penetrazione di banda ultralarga che invece gli altri paesi hanno già raggiunto oggi. Sì, esatto. La semplicità. Questi servizi sono facili o richiedono un pubblico che è già abituato a internet in qualche modo? Insomma, torniamo poi al tema, insomma, della facilità con cui ci si avvicina al televisore e invece la relativa complicatezza del computer. Guarda, Cilic ha 50 dipendenti, e 2/3 sono ingegneri che lavorano sulla tecnologia e lavorano tutti i giorni su questo tema, sulla semplificazione del rapporto, dell'interfaccia, come si chiama. E questo, a nostro avviso, ha dato dei risultati importanti, nel senso che oggi, per semplificare, per registrarsi su Cili, l'ideale è farlo su un PC, sul browser, perché c'è una tastiera più comoda, ma lo si può fare anche ovviamente sul tablet o sullo smartphone. Bisogna mettere una mail, una password e il proprio sistema di pagamenti. Dal 1° gennaio neanche più il codice fiscale bisogna mettere dentro. È molto semplice. Da quel momento in poi viene dato un codice di 4 cifre, 1, 2, 3, 4, e su qualsiasi device si può comprare il film. E quindi col telecomando è sufficiente spingere il pulsante che mi manda su internet, che è la pagina di internet, cliccare sul widget, sull'immagine di Cili, scegliere il film e fare il codice di 4 cifre. Certo, non è come cambiare il canale, certo. Da un canale all'altro. Ci sono due problemi. Uno questo, e noi lo semplificheremo ulteriormente, cioè toglieremo anche il codice di 4 cifre, cioè sarà come quasi cambiare canale. L'altra differenza è molto importante, è che di fronte alla televisione lineare digitale noi siamo passivi, noi giriamo il canale e vediamo quello che ci offre la televisione. Esatto. Qui abbiamo 5.000 film dentro i quali scegliere cosa fare, no? E questo è un tema, perché l'ansia della scelta è sempre, cioè, più informazioni ciò è più complicato diventa, certo, come la sera uno se può far scegliere a qualcun altro è meglio cosa fare, insomma, perché certo. Già abbiamo tante decisioni da prendere durante la giornata. E allora noi su quello lavoriamo molto, perché sono questi motori di raccomandazione che propongono, ovviamente nel totale rispetto della privacy, ma propongono ai nostri clienti, a seconda delle tipologie di consumi che hanno, che tipo di film proporre. Per cui a seconda se ti piacciono i film di animazione piuttosto che i film crime, piuttosto che film commedie, e più si va avanti e più si è sofisticati su questo, e si possono dare, quindi fare in modo che la scelta sia una scelta semplice, sì. non ansiogena, diciamo così. Lei ha detto prima che fra 10 anni vedremo la TV così, nel senso dell'on demand, cioè ci scegliamo noi il palinsesto, o così nel senso di via internet, cioè non ci sarà più la TV via digitale terrestre o via satellite? Tutte e due, nel senso che varrà anche per la diretta TV, no? Varranno anche per lo sport, cioè lo streaming è un modello talmente efficiente e razionale nella distribuzione dei contenuti, la qualità è talmente elevata, non ci sono oggi, ancora adesso, il digitale terrestre, sappiamo quanti problemi c'ha, no? E quanto spesso anche nelle città più popolose si vede male la partita di calcio in diretta TV, no? Ecco, questo con lo streaming non succede, quindi la qualità sarà molto elevata. E in più la potenzialità dei contenuti che possono essere dati. Pensiamo al servizio pubblico della RAI. Il servizio pubblico della RAI relega spesso i contenuti da servizio pubblico in fasce orarie dove nessuno ci va, solo perché è un obbligo, no? Invece lì sono delle nicchie importanti che possono essere offerte. Noi abbiamo un'enorme offerta di contenuti che la gente vorrebbe vedere e che non trova, sì, non c'è, perché i palinsesti non lo possono dare, no? In più c'è un terzo tema molto importante, che è la customer base, i clienti della TV lineare. Non faccio nomi, ma insomma i clienti del digitale terrestre non sono conosciuti. Il vero cliente di Mediaset, non dico premium, ma di Mediaset TV, è l'inserzionista pubblicitario, non è l'utente, spettatore, lo spettatore. Sì, no? Invece il nostro cliente è l'utente, di cui abbiamo una mail, di cui sappiamo i consumi che fa, quindi abbiamo la possibilità di valorizzare molto di più la nostra, ancorché piccola, customer base rispetto a quanto non dipenda dall'Auditel o da dati statistici che sono più generici, no? Dunque, non abbiamo parlato di 4K. Oggi tutti parlano di 4K, io dico spesso in maniera esagerata, perché mi sembra che soprattutto i produttori di televisori, quindi di hardware, abbiano fatto il passo un po' troppo lungo, perché non ci sono contenuti di fatto. Il vostro atteggiamento di fronte al 4K qual è? Visto che oggi, come dire, se uno guarda la base installata, abbiamo un sacco di TV HD, ma abbiamo ancora paradossalmente pochi contenuti HD. Dunque, il 4K è fantastico, cioè sì. Vedere un film in 4K è veramente un livello di profondità nella visione di dettaglio, nella visione, fantastico. Forse in certi momenti il film è eccessivo, nel senso che poi si vede molto di più di quanto non si veda a occhio nudo. Questo può essere addirittura eccessivo, però è veramente un'esperienza unica. Noi la vediamo positivamente anche perché stiamo giocando una partita sul 4K. C'è un consorzio fatto da Samsung, dalle major, dalle case di produzione di Los Angeles e da quattro piattaforme di distribuzione, e noi siamo una delle quattro che sono state prescelte per fare il 4K in Europa, streaming. Streaming e in pre-download, tutte e due le tecnologie. E questo partirà a primavera, le prime offerte saranno a primavera, ci saranno dei contenuti delle major fatti apposta per il 4K e saranno offerti sulle televisioni Samsung con la piattaforma di distribuzione Chili insieme alle altre piattaforme di distribuzione. Quindi a noi siamo interessati a questa esperienza perché pensiamo che sia un'esperienza importante dal punto di vista commerciale del nostro posizionamento e comunque per conoscere questo mercato. Sono d'accordo con lei sul fatto che anche l'HD oggi è ancora un risultato da raggiungere in termini di diffusione, nel senso che poi viene utilizzato un po', però gran parte dei contenuti sono ancora in standard definition, come si dice, cioè la definizione di un DVD normale. Sì. Però sicuramente, a differenza del 3D, che è stata un'esperienza, diciamo così, un po' fallimentare, direi, sì, l'ha detto lei, ma insomma lo penso anch'io, nel senso che uno si deve mettere gli occhiali, pochi contenuti e si compra una televisione che poi dopo non viene utilizzata mai per questo. Il 4K non richiede particolari device ulteriori, soltanto di accendere la televisione e avere una buona banda. Se i contenuti andranno in quella direzione, è un mercato che potenzialmente può crescere. Non è un mercato, è un mercato che partirà quest'anno, 2015. Non penso che nel 2016 ci saranno grandi evoluzioni, però in prospettiva è sicuramente una cosa molto interessante. Pensiamo a cosa può essere lo sport, per esempio, in diretta con il 4K può essere una cosa, o i documentari, un bel film in 4K può essere veramente un'esperienza fantastica. Insomma, ecco, è un tema di è evidente che chi produce device, televisioni, ha bisogno di raccontare sempre storie nuove tecnologicamente, quindi c'è un po' una rincorsa. Io ricordo, Sony presentò il 4K 2 anni fa, nel 2013, al CES a Las Vegas, quindi è un po' una rincorsa anche di concorrenza tra le varie tecnologie. Esatto. Bene, ringrazio Stefano Parisi per essere stato con noi. Ricordiamo agli ascoltatori che Chili è scritto C-H-I-L-I. Esatto, quindi ha un peperoncino come logo. E quindi insomma potete provare anche se siete clienti di supermercati, oppure se ogni tanto andate al cinema, in questo periodo trovate molte offerte per provare Chili. Sì, nelle sale UCI abbiamo fatto questo accordo importante con la distribuzione cinematografica, che prima ci guardava un po' in cagnesco, che invece... Sì, adesso... mi sono stupito anche io quando mi hanno dato il tagliandino, ho detto ma come? Quelli del cinema che... promuovono un servizio online. Eh sì, perché anche loro capiscono che c'è bisogno di parlare a quel mondo, al mondo, a chi ama il film, perché non proporgli anche le library, i film più vecchi, eccetera. Esattamente. Poi, e ovviamente sì, la nostra applicazione si può scaricare sullo smartphone, sul tablet, e la si trova in tutte le televisioni, quasi tutte le televisioni smart. Di quasi tutte le marche. Bene, grazie, a presto e buon lavoro. Grazie mille. Questa è 2024, la versione podcast del nostro programma con le nostre interviste in versione integrale. Quindi abbiamo ascoltato Stefano Parisi, tra poco sarà con noi Gianfranco Giardina. 2024. Chiudiamo questa puntata di 2024 parlando di qualità dei servizi di video streaming on demand con Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine digitale dday.it e sicuramente uno dei più autorevoli esperti di audio e video digitale in Europa, di sicuro in Italia. E allora, abbiamo detto che questi servizi si vedono bene, ma bisogna tenere conto di mille fattori e vorrei il parere di un esperto. Allora, Gianfranco Giardina, sulla qualità video di questi servizi. In linea di massima, i migliori servizi di streaming, e Chili lo è, se la banda è buona, garantiscono una qualità più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle esigenze e anche per dimensioni di schermo abbastanza grandi. Di certo la qualità va posta comunque in primo piano, Se dovessimo provare a dire, azzardarci a dire che i servizi di streaming oggi si vedono bene tanto quanto o addirittura meglio dei supporti disco, i supporti quindi offline come il Blu-ray disc, diremmo però un'eresia. Ancora il Blu-ray disc si vede qualitativamente meglio. È giusto però, perché non bisogna essere neanche, come dire, talebani della qualità a tutti i costi, è giusto che si possa accettare un piccolo decremento qualitativo, finché questo è piccolo, per avere in cambio un vantaggio di usabilità, di flessibilità. E quindi, per esempio, il fatto di poter scegliere da casa la sera stessa che film guardare senza essersi preoccupati di andare in negozio, comprare il disco o di comprare il disco online, per esempio, è un vantaggio che può essere scambiato con un piccolo decremento qualitativo. Se ne accorgono tutti? Diciamo della differenza tra il Blu-ray e i servizi di streaming, perché ricordiamo Blu-ray è il punto di riferimento della qualità non compresso, e invece tutto quello che va su internet, ma anche tutto quello che va sul digitale terrestre, sul satellite, è compresso. Se ne accorgono tutti se avessero presente la vera qualità di un buon Blu-ray disc, e cosa che non è assolutamente vera. Ci sono possessori di TV 55, 60, 65 pollici, alta definizione, addirittura 4K, che non dispongono di un lettore Blu-ray, che probabilmente non hanno visto su questo TV mai un film in Blu-ray disc. Di conseguenza a questi utenti è impossibile che questi utenti si accorgano della differenza. È una differenza comunque che resta confinata, e questo va detto per essere realisti, nell'ambito degli appassionati che si sono ormai abituati a una certa qualità video e che non sono più disposti a tornare indietro, ma per tutti gli altri, diciamo, queste differenze appunto potrebbero essere considerate trascurabili. Tant'è vero che se andiamo poi a confrontarci con quello che la gente fa, ecco, io vedo persone godersi, si fa per dire tra virgolette, molto virgolette, godersi dei film pirata con una qualità assolutamente indecente, magari ripresi con la videocamera al cinema, col fuoco che va e che viene, con una qualità anche audio inaccettabile, eppure dire: ah, ho visto l'ultimo film che è ancora in sala, bellissimo, bellissimo. Ecco, io non riuscirei a godermelo. Qualcuno riesce a goderselo, ma più che altro per, più che maleducazione alla qualità, direi ineducazione alla qualità. E qui è il punto dove, secondo me, è il vero punto col quale bisognerebbe combattere la pirateria. Non è con la repressione, non è inseguendo i vari siti di file sharing o i siti pirata su internet, non è con le azioni della polizia postale, non è solo con le azioni della polizia postale o dell'Agicom che si ferma la pirateria, ma sarebbe con la sensibilizzazione, con l'educazione alla qualità, che in Italia per moltissimo tempo non c'è stata. Sicuramente una responsabilità molto forte ce le hanno le case cinematografiche in tutto ciò, non ultimo per un motivo che abbiamo ricordato anche poco fa, che è un po' una chiave del successo di questi servizi, come ad esempio Chili, quelle famose finestre temporali che ci fanno attendere prima di vedere un film, di poter vedere un film, ad esempio in streaming. Sicuramente tagliare queste finestre sarebbe una soluzione. Assolutamente sì, perché la pirateria, se poi si va a vedere il numero delle condivisioni dei film, per esempio sui torrent, nel loro ciclo di vita, è nettamente superiore quando, proprio nei momenti in cui il film è al cinema. Quindi se questa ci fosse un'offerta comunque legale e a pagamento, con i costi per esempio che ha Chili, no? Che sono costi accessibili per tutti, diciamocelo chiaramente, non c'è neanche un abbonamento, si compra il singolo film, può farlo veramente chiunque, e anzi un film visto a casa costa molto meno alla famiglia rispetto ad andare magari in 2, 3, 4 persone al cinema, e se ci fosse un'offerta di questo tipo, assolutamente la pirateria avrebbe le gambe molto più corte, ci sarebbe sempre qualcuno che utilizzerebbe questi mezzi, perché non pagare è sempre meglio che pagare poco, ma è evidente che la pirateria sarebbe tagliata alla base. Per difendere le sale cinematografiche si azzoppa, ma questa è la mia visione personale, si azzoppa tutto il resto del ciclo di sfruttamento del contenuto che viene ovviamente dopo. Quindi, ahimè, è vero che il fascino della sala cinematografica resta, è vero che come si diceva, il primo weekend di lancio del film al cinema è un momento molto importante anche per decidere quanto quel film sarà di successo, quindi la sala cinematografica continua ad avere una centralità, ma se dopo una settimana il film fosse disponibile a pagamento su sistemi almeno di streaming, beh, la musica cambierebbe molto, secondo me. Una delle cose belle e positive che apprezziamo di un servizio come Chili, oltre al fatto che sia italiano, è una buona piattaforma italiana, quindi gli auguriamo anche in bocca al lupo per l'estero, è che è disponibile su tantissime piattaforme, se non tutte le piattaforme, quindi computer, tablet, TV, il televisore, eccetera, eccetera. Noi ci siamo abituati negli ultimi tempi a molte piattaforme o comunque molti servizi che sono o erano disponibili, ma ancora oggi alcuni lo sono, disponibili solo per alcuni tipi di device, alcuni tipi di terminali, o solo su un tablet, o addirittura solo su un tablet di una marca particolare, che sembra un'assurdità. Per quale motivo succede ancora oggi questo? Ma allora, Chili ha spogliato il re, come dire, il re completamente nudo, e per merito di Chili, e qui veramente vanno anche i miei complimenti personali, perché, come dicevi, Chili, che non è, fino a ieri, diciamo, non era una multinazionale, cioè operava soltanto in Italia, un'azienda italiana, tutto sommato piccola, ha sviluppato client sicuri per la propria offerta, perché sennò le major non avrebbero dato i film a Chili se ci fosse stata una minima falla di sicurezza, quindi client sicuri per la distribuzione streaming dei film, sia noleggio che vendita, su tutte le piattaforme conosciute. Quindi i PC, quindi praticamente tutte le smart TV, moltissimi Blu-ray che hanno la presa di rete e anche loro possono caricare delle app, tra cui quelle di Chili, i tablet, Android, iOS, Windows, Windows Phone, cioè quindi veramente tutto, compreso la soluzione da 30 euro Chromecast. Quindi veramente l'accesso a Chili è assolutamente orizzontale. Ecco, noi vorremmo che tutti i servizi fossero così. Cioè, ci stiamo un po' ribellando all'evidenza che oramai, adesso che tutto diventa molto cloud, quindi servizi online, però le app compaiono soltanto su alcuni marketplace o addirittura soltanto su alcuni device. Anche pur rimanendo, per esempio, nell'amplissimo mondo Android, ci sono delle app che sono autorizzate soltanto per i device di alcune marche. Sono esclusive, prettamente commerciali, che servono per cercare di vendere qualche tablet in più di quella marca, ma che danneggiano l'utente, il consumatore, il quale magari ha scelto un tablet 6 mesi fa sulla base dell'offerta, della convenienza, del design, di mille altri fattori. Tablet di pari potenza, di pari prestazioni o addirittura superiori non possono riprodurre alcuni servizi, non possono accedere a alcuni servizi, anche se il servizio è pagato. Per cui, parliamoci chiaro, chi vuole un film su Chili può vederlo praticamente su qualsiasi device che ha. Chi volesse prendere un film, evidentemente, faccio un esempio facilissimo, no? Su iTunes, no? Potrebbe vederlo attraverso device Apple. È chiaro, perché iTunes, no, è un servizio che è fornito da un produttore di device. Ecco, non dico che bisogna arrivare poi a tendere alla separazione dei ruoli, no? In cui chi pacchettizza contenuti e li offre un servizio, non abbia legami con il produttore, ma forse valutare che debba essere garantita una maggiore indipendenza delle piattaforme, cioè dei servizi dalle piattaforme, credo che possa essere un obiettivo a tutela del consumatore. Se no, basta un accordo tra un magari grande aggregatore di contenuti, potrei parlare di Sky, per esempio, no? Che nella parte di pay TV fa la voce grossa, è leader in Italia evidentemente, e un produttore di device, per scoprire che a un certo punto, se si vuole accedere all'offerta di Sky, che magari ha dei contenuti in esclusiva che io voglio vedere, per esempio il campionato di calcio, non lo so, qualche cosa di questo tipo, ecco, devo per forza scegliere l'hardware di un tal produttore. E beh, questo, si parla tanto di neutralità della rete, permettetemi di introdurre anche il tema di neutralità delle piattaforme. Che si lega al famoso tema del decoder unico, cioè avere un'unica piattaforma sulla quale vedere più servizi o comunque più servizi che vanno su tutte le piattaforme. Sì, il legislatore si era già espresso in questo senso. Aveva detto che assolutamente bisognava arrivare a una soluzione. Non parlavamo ancora di cloud, di servizi online, parlavamo ancora di servizi televisivi tradizionali, terrestri e satellite, e si diceva: il consumatore non deve impazzire con 100 decoder, non deve inseguire una evoluzione tecnologica che ha dei percorsi che non sono quelli dei tempi di riacquisto, quindi sono più veloci. Deve essere messo in condizione di avere un punto d'accesso e con questo scegliere a quale servizio abbonarsi. Era come dire, come se avessimo una rete telefonica, no? Separata, per cui devo avere il telefono giallo per parlare con i clienti Telecom, il telefono blu per parlare con i clienti Fastweb e il telefono rosso per parlare con i clienti Tiscali. Ecco, è chiaro che non ha alcun senso, io devo avere un telefono solo e con quello poter parlare con gli abbonati di tutti i servizi. Ho fatto un esempio che non c'entra completamente, però è chiaro che nel mondo telefonico sarebbe impensabile non avere una rete unica, non avere una distribuzione unica. Tutti gli smartphone di tutte le marche possono fare telefonate a tutti gli altri smartphone. Ecco, in questo caso bisognerebbe arrivare a una situazione in cui con qualsiasi device che abbia i requisiti hardware necessari va da sé, io dovrei poter accedere a tutti i servizi. Quindi quello che io dico è un no secco alle esclusive di carattere commerciale. La competizione commerciale si faccia su altri piani, si faccia sulle offerte, si faccia sull'appeal dei prodotti, sulla qualità dei prodotti, sull'affidabilità, sul design, ma non si faccia su il fatto di bloccare dei servizi che devono essere accessibili a tutti quelli che vogliono pagare per accedervi. Parole sante, potremmo dire. È tutto per questa puntata di 2024, questa è la nostra versione podcast, vi ringraziamo per aver scaricato il file MP3 o averla ascoltata in streaming dai nostri sistemi. Questo è un programma di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. Potete raggiungerci scrivendo a 2024@radio24.it. Torniamo come sempre la prossima settimana, siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, la domenica tra le 13 e le 13.30 in una versione ridotta oppure tranquillamente sul podcast. Grazie ancora per l'ascolto, a risentirci la prossima settimana. 2024. 2024. 31 seconds.